perfetto giorno di Simone Spezia. Uno dei terroristi suicidi di Bruxelles era passato anche da Grecia e Italia. Si scava nei contatti dell'algerino arrestato a Salerno. Il numero delle vittime nella capitale belga sale a 35. Sono almeno 30 i bambini rimasti uccisi nell'attacco terroristico in Pakistan. Il Papa parla di attentato vile e insensato. Si tutelino le minoranze, dice il pontefice. Nuovo caso, il 17esimo in 3 mesi di meningite in Toscana, ma il ritmo delle vaccinazioni e delle prenotazioni sta scendendo dopo il massiccio piano lanciato dalla regione. È morto nella notte il ciclista belga Antoine de Moitier, era stato investito da una moto durante la Grande Vevelgem e dopo essere caduto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo e naturalmente una buona Pasquetta e una buona Pasqua a tutti, anche se ve l'abbiamo già augurata venerdì, come sentite. Anche oggi siamo in diretta, i nostri contatti in apertura come sempre, il 349-238-6666 per i vostri sms e anche per i messaggi su WhatsApp, oppure se ci volete scrivere qualcosa di un po' più articolato c'è effettogiorno@radio24.it. Abbiamo aperto da un paio di giorni anche un canale su Telegram, nel caso ci fosse, telegram.me/effettogiorno. In apertura oggi torniamo a parlare di terrorismo perché sono molte le notizie che si incrociano in queste ore, a partire da quelle che arrivano da Lahore in Pakistan, dove tra le decine di persone rimaste vittime nell'attentato contro un parco messo in atto dai talebani, le vittime nel complesso sono 72, ci sono anche una trentina di bambini. Su questo e sulla situazione dei cristiani in Pakistan torneremo tra un attimo per sentire anche una voce autorevole, ma prima i nuovi arresti, i nuovi aggiornamenti in arrivo da Bruxelles e dall'Italia. Dal Belgio alla Grecia e ritorno passando per l'Italia. Secondo quanto riferisce Sky TG24, Khalid El Bakrawi, uno degli attentatori di Bruxelles, arrivò a Treviso nel luglio scorso, pernottò in un hotel vicino a Venezia e da lì ripartì per Atene. Pochi giorni dopo, il 1 agosto, anche Salah Abdeslam, uno degli attentatori di Parigi, quello infine arrestato a Molenbeek, passò per Bari, diretto anche lui in Grecia. Abdeslam ha sostenuto di non avere mai conosciuto i fratelli kamikaze El Bakrawi. Uno si è ucciso in metropolitana, l'altro in aeroporto. Eppure nell'appartamento di Khalid sono state trovate le sue tracce. E poi c'è la Grecia a unirli. Ad Atene aveva un appartamento Abdelhamid Abaoud, mente degli attacchi di Parigi e amico d'infanzia di Salah Abdeslam. In quella casa fu ritrovata la mappa dell'aeroporto di Zaventem. La procura belga intanto ha confermato l'arresto per terrorismo di altri 3 uomini fermati giovedì scorso a Bruxelles e ad Anversa, mentre il bilancio dei morti è salito a 35 perché 4 dei feriti non ce l'hanno fatta. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. I giudici della Corte d'Appello di Salerno valuteranno venerdì prossimo l'estradizione in Belgio dell'algerino Jamal Eddin Ouali, il 40enne arrestato sabato dalla polizia a Bellizzi, ritenuto tra i fiancheggiatori dei terroristi di Francia e Belgio. L'uomo detenuto in isolamento nel carcere di Fuorni durante l'udienza di convalida del fermo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Su di lui pendeva dal 6 gennaio scorso un ordine di arresto internazionale. Secondo gli investigatori sarebbe parte di un'organizzazione di falsari che avrebbe fornito ai terroristi documenti contraffatti. Negli ultimi tempi viveva ad una trentina di chilometri da Salerno con la moglie che è incinta e che ha richiesto un permesso di soggiorno per motivi di salute per assistere la moglie durante la gravidanza. Anche Ouali si è recato nei giorni scorsi all'ufficio immigrazione della questura di Salerno per richiedere il permesso di soggiorno, ma da un sospetto ed una serie di controlli incrociati, la polizia lo ha identificato e così è scattato il blitz per l'arresto avvenuto mentre l'algerino era ad una fermata dell'autobus. Laura Viggiano, Radio 24, il Sole 24 Ore. Ed è proprio di pochi istanti fa qualche aggiornamento che arriva proprio su questa vicenda, sulla vicenda dell'algerino arrestato in provincia di Salerno. Non sono un terrorista, non so nulla di terrorismo e neppure di documenti falsi, e quanto ha ripetuto a chi ha potuto avvicinarlo appunto nel carcere salernitano di Fuorni. Nel frattempo parla anche il sindaco del paese nel quale l'uomo viveva, Bellizzi. Dice il sindaco perché qui abbiamo circa 600 immigrati, sono integrati, non c'è mai stato nessun problema, non escluderei l'ipotesi di un furto di identità ai suoi danni. Vedremo come andrà a finire tutta questa vicenda. Intanto ci spostiamo appunto a Lahore, in Pakistan, dove le vittime dell'attacco ieri al parco sono al momento 72, sono una trentina i bambini, di questo ha parlato stamattina anche il Papa. Sentiamo. La Santa Pasqua è stata insanguinata da un esecrabile attentato che ha fatto strage di tante persone innocenti, per la maggior parte famiglie della minoranza cristiana, specialmente donne e bambini, raccolte in un parco pubblico per trascorrere nella gioia la festività pasquale. Desidero manifestare la mia vicinanza a quanti sono stati colpiti da questo crimine vile e insensato. E per parlare di questo argomento abbiamo in linea con noi un ospite, si chiama Shahid Moben, professore di storia e pensiero islamico all'Università Lateranense di Roma. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. È di origine pakistana, viene dal Punjab, la stessa zona della quale Lahore è la capitale. A 21 anni si è trasferito a Roma, dove si è laureato appunto all'Università Lateranense e dove adesso è professore ed è cristiano, tra le altre cose, quindi anche un trascorso in quei luoghi. Professore, prima di andare sul tema più generale, le chiederei di darci un dettaglio di come vivono i cristiani in quelle aree del Pakistan. Ci può fare qualche esempio? Sì, diciamo in Pakistan a Lahore e a Karachi sono due concentrazioni principali dei cristiani cattolici in particolare, però i cristiani sono presenti anche sul territorio nazionale, non è che diciamo anche per questo ci sono 7 diocesi e sono quasi, secondo le stime ufficiali, 3 milioni di fedeli che vivono la propria fede, contribuendo anche alla vita quotidiana nazionale, anche per il suo progresso, ma stesso momento ambiti in cui hanno dato un maggiore servizio è aspetto sanitario e anche l'educazione, perché ci sono le ottime scuole cattoliche in questa terra. Ecco professore, questo dal lato del loro contributo, dall'altra parte però vivono di fatto una quotidiana discriminazione, di che tipo? Beh, essenzialmente la discriminazione può essere, anche la persecuzione, può essere divisa a livello storico in Pakistan in due momenti particolari. Il Pakistan nasce il 14 agosto 1947 e fino agli anni 70 problemi essenzialmente non ci sono, ma dopo la legislazione e la Costituzione che fu fatta da Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir Bhutto, e successivamente le modifiche estremiste islamiche fatte da Ziaul Haq, hanno delineato piuttosto un fanatismo sociale, oltre a produrre dei mujahideen per la guerra in Afghanistan, però furono create proprio le istituzioni educative e hanno dato delle direttive fanatiche e fondamentaliste alla società. Ci può dare qualche esempio concreto? Come vive un cristiano oggi? Quali problemi trova in Pakistan? Beh, nella quotidianità un cristiano per esempio non può mai aprire un ristorante, perché il 97% del popolo che è musulmano non ci andrebbe a mangiare, perché il ristorante è impuro in quanto proprietario è cristiano. Prendiamo anche l'esempio stesso di Asia Bibi, ormai conosciuto a livello mondiale, che tra le sue colleghe musulmane non potevano bere acqua dallo stesso bicchiere, perché dalle colleghe musulmane lei è considerata impura, e per cui anche il bicchiere da cui ha bevuto, e le musulmane non dovevano bere acqua da quel bicchiere. E ci sono anche dei problemi a scuola per i bambini, no? Sì, ovviamente, per esempio nelle scuole statali i bambini cristiani o indù, per cui anche altre minoranze religiose, se vanno nella scuola statale non possono usare per esempio i stessi panni, perché addirittura il bambino musulmano rifiuta di usare il stesso bagno dove c'è andato il cristiano, e c'è un divieto in generale, non vogliono avere il compagno di banco non musulmano perché è impuro. Quindi una sorta di apartheid in sostanza, professore. Sì, essenzialmente, diciamo, le minoranze religiose del Pakistan sono ghettizzate a causa di questa discriminazione a vari livelli, dal più alto fino al più basso. L'esempio, diciamo, della quotidianità li ho dati, però se al momento le minoranze religiose, per esempio, non possono accedere alla carica del Presidente della Repubblica, e c'è un divieto proprio previsto dalla Costituzione, neanche a diventare Primo Ministro, e anche altre cariche alte dello Stato sono impossibili per le minoranze religiose. Vorrei ricordare Shahbaz Bhatti, il ministro cattolico che fu ucciso proprio perché era presidente della commissione per revisionare la legge che grandemente è abusata, la legge della blasfemia. Lui è riuscito ad avere rappresentanza nel Senato di 4 seggi per le minoranze. Ha provato a aumentare il numero dei parlamentari, ma non ci è riuscito e è stato ucciso molto prima. La ringrazio, professore, grazie per il suo racconto, per i suoi chiarimenti e anche per le sue testimonianze. Shahid Mohben, professore di storia del pensiero islamico all'Università Lateranense di Roma. Noi ci spostiamo a Di Domeni, dove la tensione resta ovviamente molto alta. Resta alta la tensione ai Domeni. Al confine le autorità macedoni hanno inviato oggi altri uomini e mezzi a presidiare la recinzione dopo che ieri un gruppo di migranti ha tentato per ben 2 volte di sfondare la barriera che divide la Grecia dalla Macedonia. Al momento sono circa 11.500 i profughi ai Domeni, dopo che volontariamente circa 500 persone nei giorni scorsi hanno scelto di salire sugli autobus messi a disposizione dal governo greco. Vengono portati in centri di transito sul territorio greco per essere identificati e poi rientrare nel programma di ricollocamento in Turchia. Ieri una carovana di attivisti italiani di 300 persone è arrivata ai Domeni, fra loro anche alcuni legali come l'avvocato Paolo Cognini. Abbiamo costruito un punto anche di informazione legale, accordo che è quello tra l'Unione Europea e la Turchia, che è un accordo profondamente illegale, ma basti pensare al paradosso per cui in Europa abbiamo profughi curdi che quindi sono in Europa perché sottoposti a persecuzione da parte delle autorità turche. Dove il confine è meno presidiato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo alla cronaca, iniziamo da Roma, dove una grossa voragine, profonda quasi 20 metri, larga 3, si è aperta ieri nel vialetto che collega 2 palazzine popolari in via Centocelle. Siamo alla periferia di Roma. La notizia è stata data dai vigili del fuoco che hanno fatto evacuare 14 famiglie residenti nei 2 stabili. L'apertura della voragine sarebbe stata causata dalla rottura di una tubazione. Ovviamente sono intervenute tutte le autorità, oltre che l'ACEA. Ma restiamo a Roma e restiamo sulla cronaca per l'arresto di un noto PR romano accusato di rapporti con minori. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, un nuovo caso di abusi scuote la capitale. Un noto PR di Roma Nord, Claudio Nucci, 56 anni, avrebbe sfruttato minorenni, li avrebbe fatti prostituire e tenuti sotto ricatto. Si tratta di ragazzini maschi tra i 14 e i 16 anni, nati e cresciuti tra Ponte Milvio, Fleming, Cassia e Flaminia, i quartieri benestanti della città. I minorenni sarebbero finiti nel giro di un vero e proprio pedofilo con il vizio degli adolescenti. L'uomo si trova in carcere dal febbraio scorso, quando è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare. Si è arrivati a lui dopo che lo zio di uno dei ragazzini, insospettito da alcuni atteggiamenti strani del nipote, ha controllato il cellulare e ha immediatamente denunciato l'accaduto. Sul telefonino del 14enne c'erano messaggi inequivocabili, video, chat, appuntamenti e luoghi per gli incontri, velate, minacce e richieste di portare anche altri amichetti. E dietro c'era sempre Nucci, che riusciva a convincere gli adolescenti ad avere rapporti con lui, uno alla volta, poi li compensava con 50-100 euro, ricariche del telefonino, scarpe o felpe per non insospettire i genitori. A te, Simone. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Ci spostiamo a parlare di ciclismo, ma per una notizia triste, quella che riguarda Antoine Desmoitiers, che è un ciclista belga. Lo sapete, la sua vita era appesa a un filo dopo che è stato investito da una moto durante la gara. Ebbene, questa mattina abbiamo appreso che non ce l'ha fatta. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Strano il destino. Queste corse del Belgio erano state in dubbio fino all'ultimo, come sappiamo. Si apre quella che in Belgio viene definita la Settimana Santa perché ci sono queste corse monumento La settimana prossima l'edizione numero 100 del Giro delle Fiandre, che è la più seguita, che porta 2 milioni di persone sulle strade. Insomma, queste corse, dopo i fatti della settimana scorsa, erano state, lo svolgimento di queste corse era stato messo in discussione. Poi, con grande coraggio, si è deciso di comunque di affrontarle, e quindi nel giorno di Pasqua, in un giorno di festa per il Belgio, ci troviamo ora alle prese con questa tragedia di corsa, che non era prima, insomma. Sono tracciati e corse molto pericolose. De Moitier, 80 km dalla fine, è caduto insieme ad altri 3-4 corridori, è stato investito da una moto della corsa che trasportava un commissario, è stato travolto, l'hanno portato in ospedale. Nella notte è morto, 25 anni, un soldato semplice del plotone. Ora si riaprono tutte le polemiche del caso sulla sicurezza delle corse. Credo però che ci sia una percentuale di rischio insita comunque nelle corse di biciclette. Questo non per giustificare nessuno, quanto per dire che si tratta di destino, di fatalità. Ovviamente ci sarà la ricerca di eventuali responsabilità, però questi sono i fatti. In una corsa che ha vinto Sagan, campione del mondo, con la maglia di campione del mondo, che di solito non porta una grande fortuna a chi la indossa nella stagione successiva, ebbene ha vinto Sagan, e adesso le corse del Belgio andranno avanti per culminare appunto domenica prossima nell'edizione numero 100 del Giro delle Fiandre. Allora Carlo, io ti ringrazio, ti ritroviamo come sempre alle 14, subito dopo le 14, con tutti i convocati. Intanto il traffico, poi ci ritroviamo subito dopo per parlare dei vaccini contro la meningite. Vi abbiamo raccontato anche in passato di quanto la regione toscana stesse battendo su questo per una serie di casi che ci sono stati proprio in Toscana, appunto, di meningite. È stato varato un maxi piano di vaccinazione che coinvolge centinaia di migliaia di persone. Vaccini che verranno dati gratis. Oggi, tra l'altro, si registra un altro caso, un ragazzo di 27 anni, lombardo, che risiedeva vicino ad Empoli, che appunto si è ammalato di meningite. Ebbene, però i segnali che arrivano dal territorio non sono per nulla buoni, perché la gente sostanzialmente non si sta né prenotando né sta andando a vaccinarsi. Ne parleremo con l'assessore subito dopo il traffico. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: uno dei terroristi che si sono tolti la vita a Bruxelles era passato anche da Grecia e Italia, si scava nei contatti dell'algerino arrestato a Salerno, il numero delle vittime nella capitale belga sale intanto a 35. E sono almeno 30 i bambini rimasti uccisi nell'attacco terroristico in Pakistan. Il Papa parla di attentato vile e insensato. Si tutelino le minoranze, dice il pontefice. C'è un nuovo caso, il 17° in 3 mesi di meningite in Toscana. Ne parleremo tra un attimo. È morto nella notte il ciclista belga Antoine de Moitier. Era stato investito da una moto durante la Grande Vevelgem, dopo essere caduto. Ed è proprio di meningite che parliamo adesso. Come si diceva, è un giovane di 27 anni, residente in Lombardia, temporaneamente domiciliato a Montelupo Fiorentino, la persona che è stata ricoverata da ieri pomeriggio in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Empoli per meningite da meningococco di tipo C. Cosa succede? Che questo è il 17° caso negli ultimi 3 mesi, altri casi ci sono stati nel 2015, vi abbiamo raccontato di come la regione toscana abbia varato un imponente piano di vaccinazione al quale evidentemente i cittadini al momento non stanno rispondendo, o non stanno rispondendo come la regione toscana sperava. Abbiamo in linea l'assessore alla salute, Stefania Saccardi. Buongiorno Saccardi e benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, i segnali, mi sembra di capire, sono negativi. Ma purtroppo la prevenzione dovrebbe essere collegata non al picco o al verificarsi della malattia, ma dovrebbe essere un'attività che si fa sistematicamente, al di là del verificarsi di un caso di malattia. Purtroppo noi, che abbiamo fatto, insomma, per lungo tempo, ormai da aprile dello scorso anno, gli appelli alla vaccinazione, abbiamo riscontrato l'affollarsi delle persone al momento della vaccinazione, al momento in cui si sono verificati sì, un po' di casi di malattia al momento in cui c'è stato il massimo dell'attenzione mediatica su questo problema. Appena l'attenzione mediatica si abbassa un po', oppure per qualche giorno non si verificano casi, oppure si verificano casi come negli ultimi 15 giorni che si sono per fortuna risolti senza conseguenze drammatiche, si abbassa il livello e il numero delle persone che quindi Sacari, la dico molto brutalmente, ci vuole che qualcuno muoia perché la gente si convinca a vaccinarsi, in sostanza. Detto brutalmente, purtroppo è così. Anche se, ripeto, negli ultimi 15 giorni si sono verificati 3 casi, compreso quello che voi avete citato di questi giorni, di ieri, che è ricoverata all'ospedale di Empoli, sempre nella stessa zona, sempre la zona dell'area vasta centro, nella quale noi abbiamo garantito la vaccinazione gratuita a tutti, indipendentemente dall'età. Anche questo caso si è verificato a Empoli, non sta facendo salire in questo momento il numero delle persone che si recano a vaccinare, sì, a vaccinarsi, nonostante noi abbiamo stiamo ottenendo la copertura, diciamo l'approvvigionamento per una copertura totale dei vaccini, e abbiamo fatto un accordo con la medicina di base che consente alle persone di andare a vaccinarsi andando banalmente dal proprio medico di medicina generale. Ascolti, e poi c'è il tema, si diceva che e poi questi vaccini scadono. C'è anche questo, quindi noi ne abbiamo comprati tanti sulla scorta dell'emozione che abbiamo avuto un mese e mezzo fa con il massimo dell'attenzione mediatica sul tema dei vaccini. Abbiamo comprati quasi 1 milione di dosi per riuscire a vaccinare il maggior numero possibile di persone, e quindi davvero speriamo che le persone ne approfittino, altrimenti, nonostante tutte le cautele naturalmente che noi abbiamo messo in atto con le aziende produttrici per acquistare i vaccini, diciamo a quantità scaglionate nel tempo, potrebbe anche verificarsi questo rischio. Assessore, un'ultima domanda. Allora, abbiamo parlato di quanto conti in vicende come queste l'attenzione mediatica, e questo è chiaro. Quanto conta invece, secondo lei, il fatto che prendano sempre più piede le teorie antivacciniste? Ha un impatto anche questo, secondo lei, oppure no? Sì, purtroppo ha un impatto anche questo. Se è vero che nelle vaccinazioni per i bambini per la prima volta siamo scesi sotto il 90%, mentre in Toscana non eravamo mai scesi sul 95%, quindi sicuramente conta anche questo, ma insomma, nel caso della meningite non siamo di fronte a una vaccinazione rivolta solo ai bambini, ma anche agli adulti e anche alle persone over 65-70 anni, che sono quelle, devo dire, più attente alla vaccinazione, perché il numero più alto di persone che abbiamo avuto e che si sono rivolte ai propri medici per essere vaccinati, appunto, sono persone all'età avanzata, sopra i 65 anni. Un'ultima domanda in realtà che ci arriva da un ascoltatore che immagino sia toscano, e dice perché chi vuole vaccinarsi al di fuori dell'area della quale ha parlato, immagino sia la centro toscana, dice sì? Il vaccino non riesce a trovarlo neanche pagato. No, i vaccini sono disponibili e sono gratuiti fino a 45 anni. Abbiamo adesso, insomma, stanno arrivando quasi 1 milione di dosi di vaccini, quindi non mi pare possibile che il vaccino non arrivi. Se c'è questo problema, prego l'ascoltatore di scriverci una mail all'indirizzo dell'assessorato e provvederemo prontamente, ma non mi risulta che ci siano carenze. Del resto, da quello che abbiamo raccontato, insomma, mi sembra che il problema non sia di carenza di vaccino. Nei nostri magazzini le dosi sono disponibili. La ringrazio, grazie assessore Saccardi, assessore Stefania Saccardi, assessore alla salute della Regione Toscana. Noi adesso ci fermiamo, c'è solo la pausa pubblicitaria perché oggi la borsa non c'è, come sapete. Nella seconda parte della trasmissione ospiteremo un'archeologa italiana. Chi è? Si chiama Maria Teresa Grassi, insegna all'Università di Milano, è stata direttrice del progetto Palmais, che era un progetto italiano che si occupava della città di Palmira. quella che è stata appena riconquistata dalle forze di Assad e che hanno sconfitto l'ISIS e hanno riconquistato questa città che è un patrimonio dell'umanità dal punto di vista artistico e culturale per le rovine romane che ci sono. Sono state diffuse anche delle foto di come è ridotta Palmira dopo il passaggio dell'ISIS e con la professoressa Grassi vogliamo capire proprio secondo lei quanto è veramente andato distrutto, quanto è recuperabile da quel che possiamo vedere naturalmente dalle immagini. A tra poco. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Vi abbiamo ampiamente raccontato del fatto che l'esercito siriano è riuscito a scacciare l'ISIS da Palmira. Palmira che era diventata per certi versi un simbolo anche nei nostri racconti, non solo a questo punto delle atrocità commesse dall'autoproclamato califfato, ma anche delle atrocità commesse ai danni dei beni culturali. Palmira, appunto, dove ci sono un vero patrimonio dell'umanità dal punto di vista archeologico. Voglio salutare la professoressa Maria Teresa Grassi, docente all'Università di Milano, direttrice del progetto Palmais. Professoressa Grassi, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno a lei. Allora, lei, insomma, quella città, quei luoghi li conosce benissimo, ci ha lavorato, li ha visti. Adesso stanno circolando su internet delle immagini diffuse dallo stesso regime siriano che raccontano che cosa si è lasciato dietro l'ISIS. Lei che cosa ha visto da quelle poche immagini che girano naturalmente? Qual è la situazione, qual è la condizione? Ma io innanzitutto non ho visto cose diverse da quelle che vedono tutti su internet, quindi non è che abbia dei canali privilegiati. Certamente adesso il sito ha subito delle perdite terribili, perché le esplosioni dei templi di Bel e di Balciamin, il crollo dell'arco sulla via Colonnata o le tombe a torre sono irrimediabilmente perdute. Certo, adesso bisognerà vedere quando circoleranno ulteriori immagini quale sia lo stato delle rovine rimaste e perché ci siano anche lei dice io sono molto brutale, faccio il giornalista, professoressa, se ci sono pezzi abbastanza grossi per ricostruire qualcosa, dice lei. Guardi, le esplosioni hanno polverizzato i templi, quindi voglio dire polverizzato nel senso proprio letterale della parola, ridotto in polvere. Non è un terremoto che fa crollare dei blocchi e poi l'archeologo li può rimettere in piedi. L'esplosivo polverizza, il calcare di Palmira è polverizzato. Quindi ci sono tanti progetti in questo momento anche di ricostruzioni magari che si potrebbero fare con le stampanti 3D, però di rimettere in piedi quello che è stato polverizzato dalle esplosioni lo credo che sia quasi impossibile, ecco, certamente. È circolata anche qualche immagine del museo di Palmira, della devastazione del museo di Palmira, professoressa, le ha viste? Quelle del museo non le ho viste, dal museo però molti reperti dovrebbero essere stati portati via da Khaled al-Assad e dai suoi collaboratori. Molti reperti sono stati poco prima che arrivasse l'ISIS portati via in un luogo sicuro, portati via da Palmira, e quindi anche quello, speriamo che larga parte dei reperti che erano in museo si siano salvati. Dice il responsabile delle antichità siriane Mamun Abdelkarim, dice: per restaurare i monumenti del sito archeologico di Palmira saranno necessari 5 anni una volta avuto il via libera dell'UNESCO. Ecco, con tutti i caveat che lei ci ha illustrato, sia il fatto che ci sono delle cose che sono completamente polverizzate, quindi irricostruibili, è un tempo che le sembra adeguato o, visto quello che abbiamo visto devastare, ci vorrà molto di più? Ma io credo di sì, perché voglio dire, io ho detto polverizzate e mi riferivo a tecniche di ricostruzione o restauro appunto di vecchio stampo, cioè quando un pezzo, quando un monumento è crollato per un terremoto, gli archeologi e gli architetti si possono mettere a ricostruirlo. Oggi con le nuove tecnologie si può fare o ricostruire in tempi anche più veloci, in maniera diversa. Quindi io penso che questo tempo che è stato detto dal direttore delle antichità sia assolutamente plausibile. Vorrei sottolineare che però prima il paese deve tornare in pace, perché voglio dire, non ci deve essere più la guerra, che mi pare che il problema dei 5 anni di Palmira vada affrontato quando il paese sarà pacificato e quando potranno entrare anche esperti internazionali, immagino come lei o come altri, evidentemente, no? Perché forse nemmeno i siriani hanno le forze, per così dire, per poter portare avanti un lavoro di questo genere. Certo, io credo che bisognerà costituire certamente una forza internazionale, ma però a capo della quale ci devono senz'altro essere i siriani, anche per decidere che cosa fare di questi siti archeologici. E quindi ripeto, però mi pare che prima ci sia una guerra da risolvere, ecco, un paese da pacificare e un popolo che ha subito perdite gravissime, che sta vivendo una tragedia pazzesca, quindi che tutto questo sia sistemato. E poi eventualmente si affronterà anche Palmira. La ringrazio, grazie a Maria Teresa Grassi. Prego. Che è un'archeologa, insegna all'Università Statale di Milano. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo, c'è America 24 in anticipo come tutti i lunedì, poi alle 13.45 daremo la linea al traffico e poi la nostra trasmissione Autotrasporti. A tra poco.